Letture di Radio 24. Il mestiere della babysitter non è più esclusivamente femminile. Oggi anche gli uomini hanno scoperto questa professione e sempre più famiglie scelgono di affidare a loro la cura dei propri figli. Si chiamano mannies e sono uomini di tutte le età che hanno trovato in questo settore una buona fonte di profitto. In Italia però la figura dell'uomo balia stenta ancora a diffondersi. Si tratta di un lavoro che, al momento, sembra andare per la maggiore, soprattutto all'estero, in Inghilterra e in America, e meno in Italia, paese in cui le mamme preferiscono ancora affidare i propri cuccioli a figure femminili. Questo è quanto emerge anche dalle discussioni di una decina di donne su un forum italiano. La maggioranza delle opinioniste esclude a priori una scelta simile, mentre alcune dichiarano che penserebbero a questa eventualità nel caso in cui il babysitter fosse loro presentato da conoscenti o parenti. E dire che in Italia si incontrano spesso educatori uomini all'interno delle strutture che ospitano bambini. Più pazienti e meno indaffarati delle donne. È probabile sia questo il motivo per cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo hanno scelto i mannies, dall'inglese man, uomo, e nannies, tate, per prendersi cura dei propri figli. Addirittura c'è chi, primo uomo al mondo, ha preso il diploma di balia qualche anno fa in Gran Bretagna. I pediatri sono favorevoli ai babysitter, figure che per natura danno ai bambini la sensazione di protezione, hanno molte energie, sono dei giocherelloni e pare sorridano più spesso rispetto alle babysitter. Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e presidente del Movimento Bambino, il cui scopo primario è aiutare a diffondere e sviluppare la cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, cioè far rispettare le necessità e i diritti dei bambini e degli adolescenti, afferma che per la crescita armonica di un bambino servono le cure di mamma, papà. E poi i ragazzini con i babysitter maschi si divertono di più. Gli uomini che si interessano di allevare i bambini sono uomini di pace, che preparano alla pace. È importante che dalla prima infanzia, insieme alla figura femminile, sia presente anche quella maschile. I figli si allevano in due. I ruoli sono diversi, ma le funzioni sono intercambiabili. Tutti e due possono dare da mangiare a un bimbo, accarezzarlo, cambiarlo, metterlo a nanna. I mannies sono rappresentati soprattutto da studenti che si pagano gli studi universitari, parenti, ma anche vicini di casa, e qualche anno fa le tate con i pantaloni del bel paese si aggiravano, secondo un'indagine del Centro Studi Donne e Qualità della Vita, attorno ai 200.000 individui. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Mannies, questi sconosciuti, quando sono gli uomini a badare ai figli degli altri. Dall'ultimo numero del mensile Metro Mag, Metropolitan Active Generation. Elisabetta Rasi, sulle pagine di Domenica, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, ci porta alla scoperta di una Napoli misteriosa e fiabesca, descritta nel terzo romanzo di Benedetta Cibrario, Lo Scurnuso. Un viaggio storico che attraversa varie fasi, l'era borbonica, la Seconda Guerra Mondiale e l'epoca attuale. Una vicenda che ha per protagonista una statuina, lo scurnuso, un oggetto miserabile, che passa di mano in mano nel corso della storia, diventando ben presto una magnifica opera d'arte. Per descrivere con la sua tagliente precisione le seicentesche fiabe napoletane del Pentamerone di Basile, Italo Calvino scrisse che in essa il sublime si mischia col volgare e il sozzo. Sembra, a distanza di mezzo secolo, una descrizione che si attaglia non solo al celebre autore, ma perfettamente alla città stessa. Una città naturalmente fiabesca, tanto più se al sublime e al sozzo si aggiungono quelle altre coordinate di bellezza e paura che Cristina Campo considera i poli tragici della fiaba, in un celebre saggio dedicato appunto a questo sempre vivo genere letterario. Una città dove la disgrazia è tanto più dolorosa perché lambita dalla esplosiva grazia della natura e da un'esuberante tradizione di arte e cultura, è pronta per un racconto incantato, di cui in tempi recenti soprattutto Anna Maria Ortese ha ripreso il filo antico. È in questa Napoli, così naturalmente favolosa col suo orrore e il suo splendore, che si snoda la storia che Benedetta Cibrario narra nel suo terzo romanzo, napoletano fin dal titolo, Lo scurnuso, uno che si mette scuorno, cioè che si vergogna. Alla pena ammaliata, che è la cifra dell'Ortese, Cibrario sostituisce un più leggero registro malinconico e lo esercita scegliendo un tramite misterioso e prezioso, il presepe della tradizione, che nella città del Golfo e dei vicoli non è affatto una rappresentazione devozionale, ma una messa in scena realistica e insieme illusionistica, un gran teatro in miniatura di bisogni e sogni, dove ogni contrasto, i poveri e i ricchi, la fame e l'abbondanza, le belle e le bestie, le pezze e le sete, si compone in un'armonia fastosamente fittizia, ma non per questo meno essenziale. Lo scurnuso è diviso in tre parti che corrispondono a tre diversi periodi: gli anni intorno al 1792, la fine dunque del secolo in cui l'arte dei figurari napoletani, i costruttori delle figurine che si dispongono attorno alla Natività, ha conosciuto il suo apice e l'inizio della sua decadenza. Gli anni della guerra tra il 1939 e il 1943 nei quartieri di Monte Calvario e Chiaia, infine i nostri giorni in una località della penisola sorrentina. Sono tempi non solo cronologici, ma simili a quelli di una composizione musicale, ognuno con un suo proprio registro espressivo, psicologico nell'ultima parte, realistico o quasi neorealistico in quella centrale e, malgrado la precisione dei dettagli storici, decisamente fiabesco nella prima. Ed è questa la tonalità che si impone anche nel resto del romanzo, più o meno occultamente, investendo i personaggi del privilegio e della grazia dell'incantesimo. L'autrice torinese, e di lontane origini napoletane che qui forse si rivelano in una sorta di aura affettiva che permea il racconto, predilige i luoghi perduti e gli oggetti scomparsi, e nei suggestivi elenchi che ne fa guarda Napoli come a una città sì di rovina eppure di operosa vitalità, rendendo così non solo amabile, ma tra tante deprecazioni, anche originale il suo romanzo. Come nelle fiabe della tradizione, tutto inizia con un bambino povero e solo che viene dato in pagamento per un lavoro svolto a un vecchio figuraro. Il bambino ha i modi e l'aspetto di una faina, murato in se stesso da una paura rotta solo a tratti dalla curiosità, ma possiede un dono fatato, mani capaci di trarre dall'argilla qualunque fattezza umana e farla vivere. È lui che, attraversando Napoli dai vicoli alle botteghe artigiane di Capodimonte, davvero poli di paura e bellezza, si farà autore di una nuova statuina del presepe, in cui il vecchio figuraro, ormai malato e rattrappito e appunto scurnuso, vergognoso della sua miserabilità, assume la dignità di un meraviglioso oggetto d'arte. Questa statuina è come l'acciarino magico o come una specie di lampada di Aladino che passa di mano in mano attraversando il tempo col carico di ciò che porta con sé, una vicenda umana che tocca e muove altre vite. Così nella Napoli squassata dai bombardamenti la ritroviamo tra le mani di personaggi che ricordano certe apparizioni dell'oro di Napoli di De Sica e Zavattini, specialmente l'episodio del vecchio signore che gioca a carte e sempre perde col figlio del portinaio. Contesa da un duca e da un cardinale, inventariata con amore da un piccolo impiegato, che se i tempi fossero stati diversi sarebbe un doratore, la statuina è ora il miglior pezzo di un presepe antiquariale, più di 150 figure alle quali neanche i disastri della guerra tolgono il potere fascinatore. Nato dalla mente di un bambino solitario, lo scurnuso finirà poi nelle mani di un'altra bambina solitaria, enigmatico simbolo di ciò che è anonimo e resta ignoto attraverso i secoli, carico del destino, di tutto ciò che ci sfugge eppure inesorabilmente ci riguarda. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Elisabetta Rasi, tratto dall'inserto culturale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. 7 italiani su 10 hanno difficoltà a comprendere un testo scritto di media difficoltà. È il cosiddetto analfabetismo di ritorno, un fenomeno descritto dal noto linguista italiano Tullio De Mauro nei giorni scorsi a Firenze al convegno Leggere e Sapere, la scuola degli italiani.